ragioni mi sembrano due: uno il terremoto e l'altro all'interno del contesto le vignette di Vauro. Per il terremoto la parola d'ordine è che va tutto bene. Io sono d'accordo sulla solidarietà che è straordinaria, sui soccorsi che sono stati efficienti, sul fatto che Berlusconi sia tornato più volte sui luoghi del terremoto, ma questa è solo una parte della questione della verità. Il problema è che in questo paese la cosa più difficile è diventata dire la verità. Ora, la verità non si può dire nei regimi autoritari, e io non sono d'accordo che questo è un regime autoritario, ma è una democrazia profondamente malata. E anche nelle democrazie malate non si può dire la verità, bisogna dire che tutto va bene. E invece i fatti stanno dimostrando giorno dopo giorno che in questo terremoto ci sono state, le cose non sono andate tutte bene perché si sono costruiti palazzi sulla faglia del terremoto, si sono costruiti con materiali che non andavano bene, sono collassati, era stato detto con indagini serie e non se ne è tenuto conto e quindi non si può dire la verità. E invece, secondo me neanche gli italiani la vogliono sapere la verità. Io vado ancora in giro, non come prima, mi chiamano e la gente non la vuole sapere la verità sul paese. E questo è una spia terribile della situazione. L'altra questione sono le vignette di Vauro. Ora possono piacere o non piacere, ognuno può esprimere i suoi gusti, però non è che si possa, la satira non si può censurare. L'umorismo, che è un presupposto per la satira, non so se è stata citata, mi pare che Ionesco avesse scritto che non c'è umorismo, dove non c'è umorismo non c'è umanità, dove non c'è umorismo c'è il campo di concentramento. Ora, la satira è la linfa della democrazia. Se viene censurata la satira, si conferma che noi viviamo in una democrazia profondamente malata. E se poi non si vuole far sapere e non si accetta l'idea che una democrazia profondamente malata è come un ammalato grave, se gli si dice che uno che ha un tumore c'ha una cisti benigna, questo qui la fine che fa è muore sicuramente. Quindi mi pare che il paragone regga. Quindi il provvedimento preso nei confronti di Vauro è un provvedimento ingiusto e sbagliato. In una qualsiasi democrazia decente, provvedimenti di questo tipo non si prendono.